Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Melog, vorrei dire che secondo me la televisione è un grande strumento, è una grande cosa che ci permette di migliorare la nostra qualità della vita. La televisione fa male a tutti, grandi, piccoli. Basta, la televisione è un mezzo per incoglionire la gente, Nicoletti. Questa è la verità. Pensando alla TV del passato e alla TV attuale, mi viene da dire che mentre la TV del passato apparteneva a una dimensione irreale più vicino al sogno, oggi appartiene sempre più a una dimensione irreale ma più vicina alla finzione. Lo sapete cosa sia un consumo mediatico? Beh, se mi state ascoltando, state effettuando un consumo mediatico. Cioè state rivolgendo la vostra attenzione a dei media, cioè dei mediatori che possono essere oggetti di vario tipo, che vi portano informazione, intrattenimento, passatempo, nequizia, qualcosa di serio e qualcosa di assolutamente non serio da altre parti del mondo, da altre persone che più o meno di mestiere hanno la funzione, anche se nessuno a loro ha mai dato un mandato ufficiale, come appunto voleva il buon vecchio Bobbio per fare questo mestiere. Oggi è una giornata interessante perché questa mattina mi sono posto la domanda se nella TV generalista ogni Dio fosse morto. Mi sono posto e ho scritto un velocissimo pezzo, lo trovate nel sito della stampa.it. Me lo sono posto perché stavo osservando il pianto, il flagellarsi, l'angoscia della televisione generalista nelle parole dei suoi osservatori. Io per anni ho fatto di mestiere l'osservatore della televisione, oggi me ne fotto, non mi interessa più guardare la televisione, guardo altre cose, però l'ho guardata con grande attenzione, ho fatto del mio impegno quotidiano il guardare tutta la televisione possibile, e quello che dissi una decina di anni fa mi sento di ripeterlo oggi: la crisi della TV generalista, che è l'unica che realmente ancora rimane attaccata alla certificazione di esistenza delle persone che contano nel nostro paese, è dovuta al fatto che ormai la televisione non appartiene più agli uomini che hanno fatto la televisione, ma agli uomini che sono fatti dalla televisione. Beh, questa mattina vorrei convocare voi, visto che non ho ospiti, sui consumi mediatici. La televisione risulta essere quello eccelso per primo, ancora il 90%, 90,4% degli italiani guarda ancora la televisione. Bisogna entrare nello specifico quale televisione guardi. Il dato lo prendo dall'ultimo rapporto proprio sulla comunicazione fatto dal Censis insieme a Luxi, l'undicesimo rapporto, stanno presentando proprio in questo momento alla Sala delle Colonne alla Camera. Se riusciamo a prendere qualcuno del Censis tempo che finisca la presentazione, forse ce lo faremo spiegare un po' meglio. Però il Censis, che è il grande osservatorio sull'Italia, riguardo ai consumi mediatici, quelli di cui sto parlando questa mattina, degli italiani, fa alcune considerazioni ogni anno, e anche quest'anno viene fuori esattamente un dato che già conoscevamo ma che cresce ogni anno, che esiste una forbice incredibile, incolmabile tra le popolazioni adulte anziane. Io stesso faccio parte ormai degli indicatori della popolazione anziana perché ho 59 anni, e i giovani. Tanto che soprattutto questo lo vediamo, che i giovani, quelli che ormai hanno considerano la rete come l'unico grande luogo, l'unico grande territorio su cui attingere informazioni, su cui consumarsi mediaticamente, i giovani sono il 90%, mentre negli anziani si arriva al 21%, pensate che incolmabile distanza, aumenta ogni anno. Riguardo però la televisione, su cui vorrei convocarvi questa mattina, chiamando al 800 24 00 24, vi pongo alcune domande. Siete ancora legati, attaccati all'idea che esista una televisione, cioè esista un luogo in cui alcune persone con un livello di affidabilità più o meno variabile comunque hanno degli strumenti diversi, più raffinati, più potenti rispetto ai vostri, per gestire, amministrare e raccontare la realtà? O pensate che ormai, visto che giovani o vecchi che voi siate, visto che l'età anagrafica ormai è una fattispecie molto, molto variabile a seconda del della percentuale di contemporaneità che ognuno di noi si sente di dover incarnare in se stesso. Ecco, pensate che in realtà avete voi gli stessi strumenti che hanno le persone alla televisione per leggere la realtà, e quindi o voi o loro è la stessa identica cosa essere dentro quella che una volta era una magica scatola, quasi un tabernacolo. 800 24 00 24. Dunque, presumibilmente, Patrizia è uscita di casa, si è chiusa alle spalle la porta senza farsi sentire da nessuno e non è più tornata indietro. Omicidi, scomparse, violenze, noi cerchiamo di capire. Anche un dubbio può essere la chiave di un giallo. Indaghiamo per raccontare, per lasciare un'impronta. La verità non... Quello che mi viene di pensare è che in realtà... essendo io nato nel 1954, quindi sono nato insieme alla televisione, come la concepivamo almeno agli esordi del contatto viscerale e stretto che ha avuto il nostro paese con lo strumento televisore, è cambiata notevolmente la percezione generale. È cambiata perché naturalmente la televisione oggi non ha più quella centralità nella casa italiana come l'aveva una volta. Una volta la televisione era quasi un tabernacolo, tanto che le mamme non vedono più la necessità di coprire il televisore come si faceva negli anni 50 con una sorta di piccola tovaglietta. Sì, per quando la televisione entrò nelle case italiane, entrò nel salotto. Doveva confondersi col mobilio del salotto, quasi ci fosse un senso di pudore nei confronti di quell'oggetto. Beh, oggi è cambiato notevolmente, non ci si vergogna più di avere il televisore, anzi il televisore diventa un fantastico, enorme schermo che troneggia e si fa vedere agli amici. Ma allora c'era come un senso di rigorosa attenzione verso qualcosa da cui veniva una mediazione della realtà che non era possibile farla rispetto alle persone qualunque. La televisione, come abbiamo visto, rimane ancora uno dei consumi maggiori da parte italiani. Ma quale televisione guardano gli italiani? Guardano quella che naturalmente consideriamo nel nostro immaginario la televisione per eccellenza, o frammentano comunque la visione televisiva attraverso un'infinità di altri vettori: chi la guarda nel proprio smartphone, chi se la guarda nel computer mentre lavora, chi la guarda in tanti altri piccoli apparecchi che riproducono l'immagine televisiva nelle varie stanze della casa. Non c'è più una geografia sacra della casa. Ecco, questa è una delle prime domande che mi piacerebbe rivolgere a Giuseppe Roma, sociologo direttore del Censis, che abbiamo appena raggiunto, proprio fresco di conferenza stampa, per presentare l'undicesimo rapporto. Giuseppe Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo rapporto della comunicazione, ogni anno mi sembra che i dati che vengono riconfermati aumentano la forbice nella differenza sostanziale che c'è fra un paese vecchio e un paese giovane che cresce. Il paese vecchio rimane tenacemente attaccato ai vecchi vettori di informazione, ai vecchi consumi mediatici. Quelli nuovi, sempre più decisamente, hanno deciso che ormai il consumo mediatico è qualcosa che ci si porta addosso, qualcosa di incorporato. Ho letto male questo rapporto? No, no, ha detto benissimo, però bisogna fare una considerazione ulteriore. Cioè, i giovani sembrano naturalmente essere quelli più legati al nuovo, alle nuove tecnologie, all'innovazione, alla società dell'informazione, alla società della cultura, alla società della conoscenza, no? Sono tutte cose che sono slogan a noi noti. Non si capisce come mai siano però la parte della popolazione più esclusa dalla vita attiva, che non riesce in nessun modo a identificare la sua condizione con una condizione anche di futuro, di cambiamento. Probabilmente siamo in una società in cui la permanenza, diciamo, nell'età adulta e dell'età anche anziana, della terza età, come momento attivo della vita, e quindi come presenza nel lavoro, presenza nell'opinione, presenza nei gusti, eccetera, e ci sta veramente creando una contraddizione molto forte. È singolare questo, perché il nuovo non si afferma. Non si afferma, ma noi stiamo ancora a parlare di una antica reliquia che forse merita di essere messa nei musei, che è la TV generalista. Ci stracciamo le vesti quando i talk show della prima serata vanno tutti male, perché in fondo sono tutti uguali, c'è sempre la stessa compagnia di giro. Sembra di vedere gli amici all'osteria che parlano col prete, col sindaco e col farmacista, che giocano a carte e si bevono un bicchierino. Però nonostante questo c'è l'attenzione generale su questo. Quando ormai io ho dei figli abbastanza giovani, esiste una popolazione crescente emergente che questo non sa nemmeno cosa sia. Sentiamo qualche ascoltatore. Silvia, buongiorno. Silvia. Buongiorno, no, io Nicoletti volevo... Si spenga la radio, ecco, brava, sì. Ecco, Giuseppe Roma, prendo lo spunto dalla breaking news, non per la notizia in sé, ma per il fatto che ormai l'informazione ha bisogno di irruzioni veloci, immediate. Una notizia la radio non può fare a meno di darla, perché in questo momento già sta circolando nei telefonini di tutti, nei tablet di tutti. La vecchia, antica e immarcescibile TV generalista, che a questo momento farà vedere la Clerici che mescola il sughetto o fa il soffritto e aspetta la liturgia del telegiornale per dare questa notizia, non appartiene ormai a una sorta di reliquia museale nei consumi mediatici? Quella televisione sì, ma ci sono anche altre televisioni, probabilmente ci sono televisioni all news, ci sono palinsesti più veloci, e poi ricordiamoci che c'è una televisione che puoi vedere quando ti pare. Certo, nell'informazione vale la velocità, e quindi la velocità è bruciata da internet, evidente, che brucia persino l'inserto radiofonico. La velocità parte dall'agenzia, la prima agenzia che dà la notizia è quella che vince, e da lì a cascata su internet e poi sulla radio, poi sulla televisione o news. Ma il punto vero è che dovremmo chiederci perché, nonostante tutto quello che giustamente lei dice, la vecchia e polverosa televisione, però poi nell'utenza dei media il 98% degli italiani guarda la televisione. Secondo me c'è bisogno anche di un po' di passività, perché tutti i media ci inducono alla velocità, ci inducono al massimo di apertura informativa, abbiamo fonti di tutti i generi, cioè siamo diventati attivi, scegliamo cosa fare. Ma in che senso, Roma? Come coadiuvante della biocco serale o nel senso esatto, di... Esatto, io detto in altro modo può essere così, cioè facciamo anche una vita molto più faticosa, molto più certo. Mobile. Allora a un certo punto abbiamo persino bisogno di un po' di passività. Certo, quella passività, se fosse usata magari per darci qualche sollecitazione di tipo culturale, qualche sollecitazione persino di tipo intrattenimento, invece da farci da sonnifero, potrebbe essere, diciamo così, un fatto migliorativo. Però io in questo è un momento di grande confusione mediatica, cioè tutto questo l'abbiamo capito perfettamente. Ci fermiamo soltanto un istante, Roma, che diamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo sui consumi mediatici degli italiani. Melog, cronache meridiane. Pia Riceputi, che in gioventù ha abortito, e ci racconterà le sofferenze che tutto questo le ha comportato. L'atto contro natura. Allora, quando invece abbiamo un Papa che dice con grande franchezza, dice: io se vedo un omosessuale che cerca Dio in buona fede, chi sono io? Ecco, questo è un tipico esempio della televisione che stiamo cercando di enucleare come una sorta di dose di camomilla serale. Per qualcuno aiuta a lenire i danni dell'insonnia senile, per qualcun altro serve per abbioccarsi, perché è giusto, dopo aver tanto smanettato durante il giorno, ci vuole qualcosa che ti aiuti lentamente a passare dallo stato di veglia allo stato di riposo. Stiamo parlando dell'undicesimo rapporto Censis UXI sulla comunicazione, presentato pochi minuti fa alla Camera dei Deputati. Abbiamo al telefono Giuseppe Roma, che è il direttore del Censis, che è anche sociologo. Io vedo nella vostra ricerca che ancora una volta cresce l'attenzione degli italiani, visto che è un nostro primato che ci ha riconosciuto da tutto il mondo, nei social network. Ma anche qui la forbice cresce. In un mondo in cui uno potrebbe anche bleffare sulla propria condizione anagrafica, le popolazioni più anziane sembra che abbandonino l'idea di potersi rimettere in gioco anche attraverso la simulazione del social networking, ma i giovani avanzano. La nuova maniera per informarsi, anche comunicare a vicenda e scambiarsi tracce di labile o anche fallace informazione attraverso i social media? Ma certo, c'è una differenza di tipo generazionale, ma forse c'è anche una differenza che riguarda proprio le personalità, le diverse personalità, perché diciamo francamente ci sono social network e social network. Chiaro che Twitter può essere di interesse di una persona magari acculturata che vuole dare spazio. È un po' un giochino da professionisti bolliti in Italia, un po' bolliti, però che gli piace far vedere che sono giovani. Sì, vabbè, però d'altronde poi i quotidiani magari una ricerca non ci va su un quotidiano, ci va il tweet di uno qualsiasi che ha detto una frase spiritosa. I però, quotidiani si reggono in piedi ancora grazie a un pubblico anziano, però, vedo. Sì. Però quello voglio dire, il social network che cos'è? È l'esposizione del sé, no? È il fatto che penso a Facebook, oppure è l'utilizzo di una ricerca di video indipendentemente appunto dalla televisione, da chi l'ha generato, eccetera, che può essere YouTube. Cioè sono cose che veramente attengono a culture altre, o di chi appunto vuole esporsi e anche a rischio di riservatezza, della propria riservatezza e propria tutela della propria sfera personale. Mi sembra un valore che ormai ai giovani non gli interessa più. Che non gli poi interessa più, anche se poi vediamo che insomma, si vuole uno e l'altro, nel senso che poi si vede che qualcuno che però tuteli. Sentiamo un secondo, Roma, qualche ascoltatore. Silvia, l'avevamo interrotta in maniera brutale. Silvia, c'è ancora? Sì, buongiorno. Ecco, vediamo. Allora, io e lei siamo coetanee perché abbiamo la stessa età, abbiamo le idee completamente diverse. Non se ne vanti. No, non me ne va, no, per l'amor non sto vantandomi, io sto dicendo semplicemente che tutta questa caccia alla fretta, alla notizia immediata, eccetera, eccetera, e alla corsa chi la dà per prima, bisogna vedere prima chi tutto la dà come per viene prima data. È un concetto che dovrebbe perseguire. No, ma aspetti, questo qui è tutto, è riuscito a procurare quello che ha detto l'Europa l'altro giorno, cioè? Che i nostri ragazzi sono i più ignoranti d'Europa. I nostri ragazzi fanno quello che fanno i ragazzi del resto del mondo. Signora, se lei ha la mia stessa età, è invecchiata male, stare, mi scusi. Perché i ragazzi del giorno d'oggi non sanno parlare, perché non sanno parlare, non sanno leggere perché non hanno mai letto niente. Ma dove sta scritto? Loro. Ma scrivono 100 volte quello che scrivono i loro genitori. 100 volte scrivono di più, comunico attraverso ma la scrittura. Ma io non credo proprio, perché guardi, ma lei li vede? Io ho dei figli come a lei dei figli. Sì. Beh, uno non parla il mio perché non parla così, però l'altro parla bene, parla anche il giapponese. No, ma io non sto parlando assolutissimamente, io non so neanche, cioè io, lei ha detto di avere dei figli giovani, per cui io lo prendo per buona, però voglio dire, io mi accorgo benissimo, anche a confronto con, e ho un figlio di 35 anni, per cui non è un figlio molto giovane. Sì, ma probabilmente i giovani italiani sono, secondo il rapporto OCSE, i più ignoranti degli altri, perché hanno i genitori altrettanto ignoranti. No, caro, i giovani italiani hanno i ragazzi che hanno l'intelligenza, cioè la cultura che hanno. Perché c'hanno degli insegnanti che sono i più ignoranti d'Europa. Allora che se la prende coi giovani, ecco, colpa però, di se, no, io non me la prendo, però io dico che tutti questi network, eccetera, eccetera. Ma uno si sta guardando la televisione, la guarda, accetta una sì, notizia. Sì, signora, fanno parte della contemporaneità, è un dato di fatto, non si può tornare indietro, indietro non si torna. Fulvio. Fulvio. Allora, ciao Gianluca, intanto. Sono Fulvio Zendrini. Fulvio Zendrini, è una persona ciao. Che se ne intende. Sì, lo dici tu però. Vabbè, allora, si è occupato di pubblicità, si è occupato di tante... Questo mi fa piacere. Allora, innanzitutto bisogna dividere in due. Si parla di televisione e invece bisogna parlare giustamente, come state facendo peraltro adesso, di sì. televisioni. Sì. Nel senso che la televisione di per sé stessa, cioè con la quale io intendo la televisione generalista, ha perso molti treni, ma ne ha perso uno fondamentale, e cioè ha perso totalmente di credibilità. Quindi hai ragione quando dico Dio è morto nella TV generalista, non è più il tabernacolo degli italiani in cui parlano persone ispirate. Non è il caminetto domestico davanti al quale ci si mette tutte le sere e si ascolta come si faceva, sai, ti ricordi una volta si diceva è vero, l'ha detto la televisione, è vero, c'è scritto su Famiglia Cristiana. Ah, però questo, il tempo passa, no? La gente non crede più nemmeno alle streghe, ai demoni, via e perlomeno. Forse questo è in questa società positivo. È anche un bene, cioè avere dei dubbi è anche un bene, mentre invece alle televisioni non generaliste, e cioè alle televisioni satellitari, alle all news, le web TV, tutte le cose che le stanno web TV e quant'altro, si affida per il momento perlomeno una certa credibilità specifica nelle comunità che rappresentano, cioè una parla di scienza, una parla di storia, una parla di questo, uno, oppure internet ti dà quantomeno la possibilità di avere una varianza così alta di opinioni che poi tu ti fai la tua. Allora, in questo senso l'informazione è interessante. Mi sembra chiaro, Fulvio, fermati un attimo, che voglio l'ultimo minuto dalla Roma, proprio su quella che dice Fulvio Zendrini. Chiuso? Manca un minuto? No, niente, nemmeno quello. A Roma si è andato via. È interessante, lo rifletto io. Fulvio Zendrini, che è una persona che si è occupato di comunicazione e pubblicità tutta la vita, dice che in realtà oggi viene affidato una sorta di mandato temporaneo a quelli che sono, diciamo, i derivati dell'antica teocratica e monocratica televisione. È affidato un mandato temporaneo, rappresenta la mia comunità. verità, io mi riconosco in qualcosa che assomiglia a quello che rappresenta questa televisione, quindi finché questo mi soddisfa, finché questo mi dà possibilità di avere una sorta di collante con le persone della mia comunità, con cui twitto durante il programma, con cui mi confronto, con cui scambio fotografie, questa ancora ha diritto di esistenza. Bruno, velocemente, c'è ancora Bruno? Sì, Bruno. Ecco, Bruno, sì. Buongiorno Nicoletti. Ascolti, niente, mi ha sorpreso la sua entrata nel programma dicendo che non guarda più la televisione. Proprio ora che ci sono più di 800 canali da poter vedere. Ma faccio altre cose. E qui mi riallaccio all'intervento di prima, cioè il discorso non è vista questo. Tanta, mi diatto che non ho vista tanta nella vita. Sì, però ne ho vista tanta anch'io, ho 50 anni. Allora, il discorso è questo, guardi. Ora in questo momento abbiamo la possibilità di avere molta più scelta e per esempio, guardi, le faccio un esempio pratico. Mia moglie ha superato un esame, sì. di un corso professionale, sì. È rumena, sì. Non è una persona italiana, però ahimè la sigla dice che la motosega mi impone di dare la linea a chi viene dopo di me e quindi riprenderemo il tema quanto prima. A lunedì, grazie.